GR Europa. In Europa c'è una generazione che sta diventando perduta ed è forse la meglio educata, la meglio formata della storia di alcuni paesi, della Spagna, della Grecia, dell'Italia. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz intervenendo a un convegno a Parigi. Oggi ha proseguito: in Europa vediamo da un lato una ricchezza senza precedenti, dall'altro una povertà inimmaginabile e c'è la disperazione tra i giovani. La crisi che la costruzione europea sta attraversando ha messo a nudo le necessità di promuovere politiche coordinate per la crescita e di procedere verso l'unione politica. Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messaggio inviato a Ventotene nell'ambito dell'anno europeo dei cittadini. Da giovedì entra in vigore nella zona euro il cosiddetto two-pack, il pacchetto di regole che dà nuovi poteri alla Commissione UE, tra cui quello di imporre modifiche alle leggi finanziarie degli Stati. In base alle nuove norme, gli Stati dovranno presentare le loro finanziarie a Bruxelles entro il 15 ottobre. Bruxelles ha deciso di estendere al 31 dicembre 2014 la missione della polizia europea, l'EUPOL, in Afghanistan. Il Consiglio ha stanziato un budget da 108 milioni di euro a copertura del periodo dal 1 giugno fino appunto alla fine del 2014. Il pilota, biologo, fotografo sloveno Matijev Lenarčič ha concluso la sua avventura aerea che l'ha portato a sorvolare il Polo Nord con un ultra leggero allo scopo di effettuare misurazioni sull'inquinamento dell'aria. Si tratta della seconda missione impossibile su un ultra leggero portata a termine dal pilota sloveno dopo che l'anno scorso ha fatto il giro del mondo sullo stesso velivolo. E con questo è tutto per GR Europa, che torna naturalmente come sempre domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.